Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che guarda quando nei spazi del Dams Lab in piazza per Paolo Pasolini, martedì prossimo 29 novembre, prenderà il via questa mostra Antropocene, con l'abbrivio chiaramente dedicato a quel bel film che prima al MAST e poi anche in Piazza Maggiore abbiamo visto sulla distruzione del pianeta Terra da parte dell'uomo. Dunque una mostra in difesa dell'ambiente che esporrà al pubblico 70 opere, tra grafica, fumetti e vignette, tutte legate al tema dell'ecologia, e perciò vedremo immagini di dramma, ma anche immagini di ironia e di divertimento. Una mostra che parte da lontano, nasce a Barcellona, Pozzo di Gotto, nel Messinese, a cura di Fumettomania del suo animatore Mario Benenati, ma che viaggia per l'Italia itinerante, è già approdata a Cremona, al Centro Culturale Andrea Pazienza, ora arriva a Bologna, poi passerà anche da Milano, Perugia ed altre città. Dunque fa tappa a Bologna sotto la iniziativa di Radio Città Fujiko, del Comitato Ricerche Pionieri, dell'Associazione Luigi Bernardi e dello stesso Lab, Dams Lab, ovviamente dell'Università, che offre i suoi prestigiosi locali in esposizione questa settantina di opere, ma saranno anche consultabili alcuni scritti tra fiction e saggistica sul tema ambientale. E sarà presente anche un catalogo che abbiamo prodotto qui in via Zanardi, che oltre a riprodurre naturalmente su carta le opere esposte e gli scritti consultabili, ha fatto un'aggiunta, un compendio di come la questione ambientale negli anni 50, negli anni 60 del secolo scorso compariva sul Pioniere, questo giornalino dell'area di sinistra del dopoguerra. Questo per misurare anche la continuità e la discontinuità di molte tematiche tra ieri ed oggi, per capire cosa è rimasto e cosa era anche di profetico, cosa invece è cambiato da quella mentalità che aveva una grande fiducia nel produttivismo, nell'industrialismo, un confronto a distanza utile attraverso le vignette e gli articoli appunto del Pioniere. La mostra al Dams Lab sarà visitabile tutti i giorni durante l'orario universitario. Comunque, per saperne di più come è nata questa mostra, cosa presenta, cosa sta a testimoniare, riproponiamo l'intervista di Morena Moretti con Mario Benenati, che è appunto il responsabile di Fumettomania di Barcellona Pozzo di Gotto, ed è una sorta di biglietto d'invito a tutti voi per visitare questa mostra. Mario Benenati, Antropocene, vuoi dirmi perché avete scelto questo tema e come sta procedendo? Abbiamo fatto una serie di incontri. Il progetto l'ho preparato, l'ho preparato nel miglior modo possibile per farlo diventare sia un progetto che andava nelle scuole, quindi un progetto di lettura per far prendere consapevolezza agli studenti delle problematiche legate ai cambiamenti climatici, al riscaldamento globale e via dicendo, sia contestualmente una collettiva di autori inizialmente solo per Barcellona. Poi confrontandosi con altre realtà culturali in giro per l'Italia si è visto che si poteva anche, tra virgolette, esportare, e l'abbiamo fatto diventare una collettiva itinerante. Dico l'abbiamo fatta diventare, in realtà ancora è tutto sulla carta, perché la prima mostra che faremo qui a Barcellona e poi il resto vedremo come organizzarlo. Però avete coinvolto molti artisti e fumettisti, sì, coloro che appunto disegnano, utilizzano il linguaggio del fumetto. Che risposta avete, sì, avuto quindi? Allora, la risposta è stata molto positiva. Devo dire pure, inizialmente io ho contattato quegli artisti che già in passato avevano realizzato dei progetti con noi. Mi riferisco agli artisti che avevano partecipato sulla stessa barca nel biennio 2013-2015 e mi riferisco a quegli artisti che avevano partecipato ad altri progettualità sul web, artisti che ovviamente ci conoscono bene, ci stimano, ci sono anche giovani esordienti. Sì, abbiamo non solo coinvolto artisti, abbiamo coinvolto anche alcune realtà. Vado a pensare all'Accademia di Belle Arti di Asti, per esempio, grazie all'artista Gino Vercelli. Vado a pensare a Il Foglio Letterario, che pubblica una rivistina dove ci sono tanti artisti, 3-4 artisti che collaborano con quella rivistina, stanno partecipando con noi. La risposta è stata assolutamente positiva. Posso dire ormai, perché è ufficiale, che fino a questo momento ci sono 60 artisti partecipanti, ne mancano una decina, quindi arriveremo a 70 artisti di sicuro partecipanti. Oltre questi 70 artisti partecipanti ci sono anche gli studenti della scuola del fumetto Grafmated di Palermo. Loro da soli sono 60, perché io ho parlato con uno dei responsabili, Salvo Di Marco, della scuola del fumetto, e mi aveva detto: Mario, coinvolgeremo la classe terza, questo a dicembre. Invece poi in realtà hanno coinvolto tutte le 3 classi, la prima, la seconda e la terza. Tutto sono 60, quindi ci saranno 60 opere che noi esporremo però solo a Barcellona. Poi ne prenderemo 5-6 che consideriamo le più belle, e quelle li aggregheremo alla mostra itinerante che girerà le varie città italiane. Quindi oggi c'è questa mostra itinerante che sta crescendo, perché devono arrivare opere, quindi è un lavoro work in progress, e con l'intenzione di farlo circolare in Italia, sia nei luoghi, diciamo, quelli tradizionali del fumetto, ma anche nelle città che in qualche modo accoglieranno questa mostra. Sì, allora noi fin dall'inizio, quel periodo del lockdown, quindi aprile, maggio, giugno 2020, abbiamo subito contattato una serie di realtà, li posso anche elencare, per esempio lo spazio Wow Fumetto di Milano, la Biblioteca delle Nuvole di Perugia, il Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona. Queste sono state le prime 3 realtà che abbiamo cercato, diciamo, di coinvolgere, che si sono fatte coinvolgere. Lì a Milano, a Cremona e a Perugia, dunque, si realizzeranno queste mostre nei prossimi mesi. Anche in questo caso fare un calendario definitivo non è stato facile, perché nel frattempo comunque la pandemia è proseguita, quindi c'è tutto un momento di incertezza che in parte è finito e in parte no. Però siamo noi dal 27 aprile al 29 maggio a realizzare la prima mostra qui a Barcellona Pozzo di Gotto, e dopodiché tra luglio e settembre partiranno le altre. L'importante invece era partire ad aprile con la mostra qui a Barcellona e poi proseguire nelle varie città. Speriamo di esserci anche a Bologna, ci sono delle buone trattative, quindi spero che ci saremo anche a Bologna. C'è qualche trattativa per portarla a Torino pure, e a Roma. Ci sono tanti autori anche dall'estero che hanno partecipato, e quindi c'era l'esigenza, per esempio, di tradurre i testi in inglese in italiano, per fare un fascicolo italiano per coloro che guardano i pannelli di questi artisti, e quindi se sanno leggere inglese bene potranno seguirli bene, ma in caso contrario ci deve essere un fascicolo che spieghi loro che cosa c'è in questi pannelli. Ecco Mario, io sono proprio curiosa di sapere queste tavole che vi sono arrivate come sono. Tu puoi descrivere qualcuna di queste tavole, quelle che ti hanno colpito di più magari? Le tavole sono molto belle, ci sono molte illustrazioni. La cosa che mi ha colpito in assoluto è che ci sono molte illustrazioni digitali. Molti artisti lavorano, inizialmente hanno fatto degli schizzi a matita, ma poi il grosso del lavoro lo hanno fatto in digitale. Cartacee ci saranno 6-7 opere su 57. Io in questo momento sto guardando il file con la scheda informativa e con l'elenco delle opere. Quindi 7 opere cartacee su 57. Tutto il resto è digitale. Cosa mi ha colpito? Guarda, mi hanno colpito, che posso dirti? Per esempio, la prima opera, che è una ragazza di Messina, che l'ha fatto in digitale e che ha voluto rappresentare come la raffineria di Milazzo, che è un elemento molto importante del nostro territorio, sia comunque simbolo di morte, sia simbolo di inquinamento e simbolo di morte. Quindi un'opera che è un po' astratta, comunque gioca molto sui colori, per esempio. C'è un'altra artista sempre di Messina, Michela De Domenico, che invece per esempio ha rappresentato la città di Messina, un quartiere di Messina, inglobato da una struttura molto particolare che comunque ha a che vedere sempre con l'inquinamento. Poi c'è per esempio l'opera di Lelio Bonaccorso, dove si vede un orso che, sottoposto al caldo, sottoposto al scioglimento dei ghiacciai, si sveste della pelliccia e quindi si denuda. Ecco, questa è un'opera molto simpatica. E qui aggiungo una cosa, ne approfitto: non ci sono solamente illustrazioni, ci sono arrivati anche dei brevi racconti. Quindi ci sarà un fascicolo per tradurre i testi dall'inglese all'italiano delle opere in inglese e qualcuno in francese, ma c'è anche un fascicolo che raccoglie dei saggi brevi e dei brevi racconti che ci sono arrivati. Questi racconti qualcuno ha a supporto anche un'illustrazione, qualcuno non ce l'ha. A proposito di questo, visto che tu mi domandavi qualcosa che mi ha colpito molto un racconto di un giovane autore di Milazzo, Fabrizio Scibilia, giornalista che fa testi per il teatro, ha diretto anche vari giornali tra Milano e la Sicilia negli ultimi 20 anni, un giovane veramente in gamba, che ha scritto un racconto molto particolare, struggente, di un anziano che parla con il nipote, quindi c'è tutto questo racconto che gioca su questo dialogo, e poi si scopre che il nipote scopre che l'anziano è morto molto tempo prima a causa dei cambiamenti climatici e che quindi lui parla con un ologramma. È un racconto davvero molto, molto struggente. Non mi dispiacerebbe riuscire a fare un catalogo se avessimo il supporto di una sponsorizzazione importante alle spalle, perché sarebbe bello che il catalogo poi magari finisse nelle scuole per diventare un supporto per gli studenti. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne, e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Quindi tutti invitati al Dams Lab per vedere queste 70 opere di grafica, fumetti, vignette legate alla difesa dell'ambiente. Ricordo ancora da martedì 29 fino al 7 di dicembre, orari di apertura dell'università dalle 9 alle 19, tutti i giorni tranne sabato e domenica. Ma il CRAP, il Comitato Ricerche e Associazioni Pionieri, non solo è impegnato al Dams Lab per questa mostra prossima avventura, ma anche da tempo è presente in un'altra esposizione in Umbria, sul lago Trasimeno, a San Feliciano, perché all'interno del Museo della Pesca si è creato questo percorso Lodari Munari, quindi il grande narratore di Omegna e il suo più illustre illustratore, con una sezione dedicata proprio anche al pioniere a cui ha collaborato l'archivio Dina Rinaldi del CRAP stesso. Un'iniziativa che ha portato tanti visitatori, ma ha prodotto anche molte iniziative collaterali e ha presentato anche pezzi che hanno suscitato la curiosità del pubblico. Per saperne di più, sempre Morena Moretti ha interpellato Luigina Miccio, che è stata curatrice di questa mostra. Sentiamo. Mm-hmm. Luigi Namiccio, il Museo della Pesca di Magione ha dedicato l'anno 2022 a Gianni Rodari. Quali sono le iniziative e le mostre che avete organizzato per l'occasione? Sì, la mostra che abbiamo organizzato è La rivoluzione della fantasia, Munari Rodari e gli altri tra punti e linee, che è appunto stata organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Magione in collaborazione con Sistema Museo, che è la cooperativa che gestisce lo spazio museale, e Comunicare l'editoria, che sarebbe che faccio io, insomma. E sono stati tanti prestatori e partenariati per questa realizzazione, perché proprio il tema che è stato trattato in maniera molto poliedrica. Comunque, nello specifico, Regina, quindi parlaci proprio delle mostre e anche della partecipazione che c'è stata. Il percorso espositivo è tuttora, perché la mostra comunque è aperta fino al 31 dicembre di quest'anno, e è strutturato in tre sezioni. La prima sezione è una mostra permanente che è stata realizzata soprattutto in collaborazione con le biblioteche comunali, con l'Augusta di Perugia, la Gianni Rodari di Corciano e ovviamente la Biblioteca di Magione, che è la Vittoria Danor Pompili. Hanno dato le loro collaborazioni anche un museo del gioco del giocattolo, infatti ci sono all'interno dei giocattoli d'epoca, e in questo praticamente questa prima azione traccia soprattutto i percorsi dei due creativi, quindi di Munari e Rodari, anche il rapporto con la casa editrice Inaudi e con la Corraini. Invece la seconda sezione narra proprio del rapporto tra Gianni Rodari e Bruno Munari, per cui Munari lavorò per oltre 20 anni, e poi perché insomma Munari è stato forse il più famoso tra coloro che hanno collaborato sì con Rodari. E poi ci sono anche in questo spazio una cosa molto interessante, questa collaborazione che abbiamo avuto con il liceo artistico Suor Orsola Benincasa di Napoli, che ci ha mandato delle opere ispirate proprio alle macchine inutili di Munari, quindi queste si possono vedere sul soffitto, che prendono dal soffitto, è molto scenografico. A questo si aggiungono le mostre temporanee, cioè abbiamo fatto proprio questa scelta, siccome la mostra è stata inaugurata il 1 maggio e si chiuderà a dicembre, quindi tenere una mostra fissa per tutto questo periodo avrebbe ostacolato quello che è un po' la visione di questo museo, che è un museo annesso, c'è il Museo della Pesca, quindi che racconta un po' tutta la storia del territorio molto legata alla pesca, perché siamo comunque sul lago Trasimeno, e dove si fanno laboratori, letture, presentazioni di libri. Infatti tutto questo periodo è stato proprio un'occasione per fare tutte queste attività. Infatti la mostra, come mi dicevi tu, è un po' ha coperto un po' tutti i settori, perché c'è un settore molto legato alla scuola, perché tutta la prima parte, la mostra, è molto didattica. Poi c'è un passaggio, diciamo così, con cui si entra nel mondo della fantasia, e questo ovviamente ha ispirato tanto i laboratori per i bambini. Poi gli operatori di Sistema Museo hanno costruito tutta una serie di iniziative didattiche proprio aperte alle famiglie, per cui ci si accede, sono degli appuntamenti 2 volte al mese mi sembra, per cui ci sono questi laboratori dedicati alle famiglie. Poi è una mostra che possono godere tutti. C'è anche un percorso che si può fare in autonomia, perché tutto il percorso della mostra si può seguire attraverso il QR code, quindi è spiegata attraverso il cellulare, insomma c'è tutta la spiegazione. Poi la terza sezione di cui stavo parlando, che è quella invece delle mostre temporanee, in cui abbiamo alternato vari allestimenti con singoli approfondimenti legati a Gianni Rodari, e abbiamo collaborato in questo caso con l'Accademia Drosselmeier, con il Centro di Studi Gianni Rodari di Orvieto e con con l'Associazione Nazionale Pionieri d'Italia. In questa mostra, che io tra l'altro ho visitato, ci sono tanti materiali editati d'epoca, molto interessanti, molto affascinanti, quindi avete fatto una ricerca abbastanza importante. Ci puoi magari parlare di una cosa in particolare, di un giornalino, di un libro che è particolarmente interessante, che può colpire, o raro? Ovviamente ci sono delle pubblicazioni molto rare, che sono soprattutto quelle del Pioniere, e che gentilmente come associazione ci ha messo a disposizione veramente con grande generosità molti originali, che hanno affascinato anche le persone che sono venute a visitare organizzare la mostra e tanti ce l'hanno sottolineato, perché vedere il pioniere con le pagine originali, quindi con i disegni, noi poi abbiamo un po' suddiviso i temi, parlando magari su una teca si è sottolineato l'aspetto di Cipollino, in un altro magari si sono sottolineati le lettere, no? Quindi soprattutto quello di Bandiera Gialla, oppure delle vicende legate a particolari situazioni che si verificavano in quel periodo. Questo sicuramente in questa ultima fase è stata quella più interessante. Per quello che riguarda invece l'altra sezione della mostra, ci sono tanti libri legati al percorso della mostra, in particolare forse quello che ha più colpito, almeno credo che siano i libri d'epoca, delle letture più comuni per i giovani di allora, insomma, che poteva essere il libro Cuore, che poteva essere A Pinocchio, cioè tutti questi libri, insomma, che hanno fatto parte probabilmente della, che ancora lo sono, perché Pinocchio insomma mantiene una sua contemporaneità indiscutibile, che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza, ecco, dei primi lettori, perché comunque la lettura, queste cose erano sicuramente appannaggio di una classe sociale particolare, insomma, quindi si vede anche questo passaggio, secondo me, anche della possibilità di accedere ad un certo tipo di letture per i giovani nel tempo un pochino più democratico. Ecco, non dico democratico, ma insomma, sicuramente molto di più. E soprattutto poi i giornalini che noi abbiamo messo in esposizione, c'è un percorso insomma che percorre un po' tutto, il Corriere dei Piccoli, l'Avventuroso, fino proprio al Pioniere, è un aspetto insomma che sicuramente ha fatto un po' anche da stimolo a una mostra che ha toccato anche il mondo del fumetto, questo sì. Mondo che adesso è di grande attualità, perché sicuramente mai come in questo periodo si parla di fumetto, e quindi l'ha anche agganciata più al momento attuale, grazie proprio alla presenza delle prime pubblicazioni con cui il fumetto entrava in contatto con i bambini. Thank you. con una dedica musicale al lago Trasimeno col grande Tchaikovsky, la canzone del lago medesima, più che nota. Ci congediamo con questa trasmissione, ricordando però, per chi transitasse per l'Umbria, da quelle parti peraltro bellissime, l'appuntamento fino alla fine dell'anno è con questa mostra a San Feliciano, al Museo della Pesca, su Rodari e il suo più grande illustratore Munari. Per oggi è tutto, vi ricordo che per riascoltare la trasmissione l'indirizzo è www.ilpioniere.org oppure radiotafugico.it. Ciao a tutti! Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Super?